Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1816. Gli effetti di una nube vulcanica devastano i raccolti di tutto il mondo, lo chiamano l'anno senza estate. Si costituisce il Regno delle Due Sicilie, parte la restaurazione, da Milano allo Stato Pontificio. Stati Uniti federalisti ancora sconfitti, il nuovo presidente americano è James Monroe. La prima è un fiasco, ma poi per Rossini arriva un nuovo trionfo, col barbiere di Siviglia. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura parliamo di cambiamenti climatici. Alcuni dicono che per cercare i motivi della sconfitta di Napoleone a Waterloo bisogna andare fin nelle Indie orientali, perché le giornate di pioggia a metà giugno che hanno trasformato il campo di battaglia in un pantano bloccando l'artiglieria francese sarebbero dovute all'enorme quantità di cenere dispersa nell'aria dal vulcano Tambora. Il suono della sua eruzione nell'aprile dell'anno scorso è stato udito a un migliaio di chilometri di distanza. È solo una ipotesi. La certezza è che l'impatto dell'eruzione sui raccolti di tutto il mondo è stato devastante. In alcune zone degli Stati Uniti si è vista la neve in giugno, raccolti poverissimi a causa delle piogge improvvise del cattivo tempo si sono registrati in Inghilterra e in Irlanda, mentre la situazione è stata difficile anche in Italia. Le ceneri sparse nell'aria hanno fatto cadere neve scura, come in Ungheria o rossa, come nella penisola, in un 1816 che già viene chiamato l'anno della povertà o l'anno senza estate. Paolo Piacenza e il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. La politica internazionale ora, gli effetti delle decisioni del Congresso di Vienna iniziano a farsi sentire in Italia, al di là del pure semplice ritorno sul trono dei sovrani cosiddetti restaurati. A Milano, così come in Veneto, è tornato in vigore il codice austriaco, così come è stato abolito il codice napoleonico nello Stato Pontificio, seppure un timido tentativo di riforma sia stato avviato grazie al cardinale segretario di Stato Ercole Consalvi. Sulla scorta, poi, degli accordi di Vienna, il Regno di Napoli e quello di Sicilia sono stati unificati e rinominati il Regno delle Due Sicilie. Ferdinando IV ha preso il nome di Ferdinando I. Andiamo negli Stati Uniti per un voto che ha segnato di fatto la dissoluzione del Partito Federalista. Il candidato democratico repubblicano James Monroe ha ottenuto 183 voti dei grandi elettori contro i 34 del suo avversario William Crawford ed è dunque il nuovo presidente. Monroe era il segretario di Stato dell'ex presidente James Madison. La prima al Teatro Argentina di Roma è stata accolta da fischi, guidati, dicono i maligni, dagli impresari di un teatro concorrente, ma poi per la nuova opera di Gioacchino Rossini è arrivato il successo. Si tratta del Barbiere di Siviglia, tratto dalla commedia di Beaumarchais. Ci sono state anche polemiche sull'opera perché in scena nei teatri italiani la versione del Barbiere di Siviglia realizzata da Giovanni Paisiello. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, visitate la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento là o fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it, da Simone Spezia che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.